Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. L'intensità energetica è una misura di quanta energia consumiamo per produrre un euro di ricchezza. E dipende dall'efficienza energetica dei processi produttivi di un paese nel loro complesso. Se la paragoniamo agli altri paesi dell'Unione Europea, l'Italia, che è da sempre povera di risorse energetiche autoctone, ha un forte vantaggio, proprio storico, è partita da una situazione di forte vantaggio, che però negli ultimi anni si è assottigliato con i competitors europei in rimonta, mentre sostanzialmente l'Italia è rimasta ferma. Una situazione a cui ha contribuito anche una certa inerzia del comparto industriale. Secondo un recente rapporto elaborato da Università Bocconi e Accenture, infatti l'efficienza energetica dell'industria italiana è rimasta al palo nel periodo tra il 2007 e il 2010. Come abbiamo visto ieri, però, i nuovi certificati bianchi, i titoli di efficienza energetica, così come sono stati riformati e potenziati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, hanno innescato una prima ondata di operazioni di efficientamento nel settore industriale che lascia ben sperare. Parliamo di 58 progetti che prevedono interventi anche molto significativi sui sistemi produttivi. E a questo punto della storia, che abbiamo interrotto ieri la nostra conversazione sui certificati bianchi con Luigi Carbone, commissario dell'autorità, che stasera è tornato a trovarci. Buonasera Carbone. Buonasera. Allora, riprendiamo da dove avevamo interrotto. Dopo la riforma dei certificati bianchi e alla luce di questi 58 progetti che sono appena partiti, quali sono le vostre aspettative sui certificati bianchi e sul contributo che possono dare? Dipende molto da quanto si riesce veramente a far decollare questa nuova fase, questa terza era industriale. Può succedere di tutto, come ci insegna il fotovoltaico. Non mi azzarderei a quantificare, però gli obiettivi europei che la futura strategia vuole non solo raggiungere ma anche superare. Certamente però il primo obiettivo che si sta raggiungendo è quello dei risparmi. Il secondo obiettivo, che secondo me non è banale e non è secondario in realtà rispetto al primo, è quello di attivare, a differenza che in altri settori green, una filiera produttiva italiana. In Italia, come vede, ho fatto degli esempi appunto industriali, stiamo attivando delle specialità, delle tecnicalità molto importanti sul risparmio energetico. Un terzo obiettivo è anche attivare una professionalità, un management specializzato. Ormai molte aziende hanno nel loro board, nel loro management, un energy manager, cioè qualcuno che indirizza le strategie dell'azienda anche per ottimizzare il processo produttivo da un punto di vista del risparmio energetico. Questi tre obiettivi già di per sé mi sembrano molto interessanti. Un quarto, che se vogliamo ci può dare una certa soddisfazione, è quello che la nuova direttiva europea, che dovrebbe essere a giorni approvata dal Consiglio, quella sull'efficienza energetica, sul risparmio energetico, appunto, prende proprio il modello italiano dei titoli di efficienza energetica, dei certificati bianchi, quindi un riconoscimento in sede europea. Veniamo invece alle incertezze, ce ne sono di due ordini. La prima incertezza riguarda il fatto che i certificati bianchi sono un meccanismo che è valido fino a fine anno, c'è bisogno che vengano riconfermati. Questa incertezza attuale non può creare problemi, per esempio non può bloccare un po' di quei progetti di cui parlavamo prima? Certo, una delle condizioni essenziali per la crescita di questo settore è quello della stabilità delle regole, della stabilità delle prospettive. Anche se dovessero essere prorogati, e quindi andare avanti con le proroghe non è una cosa che funziona bene, che dà certezza e dà stabilità sufficiente. Quindi certamente questo dato di incertezza condiziona e intimidisce, certo, la presentazione di nuovi progetti e intimidisce rispetto invece allo sforzo di investire in nuovi interventi strutturali. Quindi questo è un primo dato. Il secondo è quello, un dato di incertezza relativo alla governance. Certamente c'è una riforma che risale legislativamente al decreto legislativo 28 del 2011, sì, che però diciamo ancora non è stata completata, ancora non è stata attuata con i decreti attuativi, e questo ovviamente dà un altro elemento di ancora incompletezza diciamo del quadro. Però a fronte di queste cose vorrei segnalare che nelle bozze di strategia energetica, sì, nazionale, di piano, di cosiddetta SEN, mi sembra certa la presenza in una posizione centrale, direi addirittura prioritaria, dell'efficienza energetica. Una cosa che colpisce proprio della strategia energetica nazionale tradizionale, di solito i consumi energetici si prevedono sempre in crescita, no? Negli ultimi 30 anni tutti i grafici avevano, come dire, la linea che saliva. Per la prima volta vediamo una riduzione, addirittura programmata nel 2020. Si prevede che l'Italia consumi il 4% in meno dell'energia che consumava nel 2010, se ben ricordo. Mi ha colpito questo fatto. Insomma, è immaginabile una società occidentale, secondo lei, che con meccanismi come saranno i certificati bianchi e mille altri che si possono escogitare, vada veramente in futuro verso una riduzione dei consumi? Allora, la riduzione dei consumi avviene per due ragioni. Una prima ragione, ohimè, è non deindustrializzazione. È certo. E quindi, diciamo, non è necessariamente virtuosa. L'altra, però, l'altra ragione è certamente virtuosa. E questa si chiama intensità energetica. Esatto. Cioè si riesce ad ottenere lo stesso prodotto, la stessa ricchezza, risultato, la stessa ricchezza, la stessa produzione con meno consumo, meno input di gas, di energia elettrica, di combustibili. Ovviamente questo sì è un risultato importante. Va anche detto con molta franchezza che mentre il risparmio energetico va man mano a scemare, cioè una volta che uno ha efficientizzato tutti i processi, certo, produttivi, tutti i consumi, ci sarà un margine sempre minore di miglioramento, chiaro, e saremo chiaro, già quasi perfetti. Ma questo margine può essere molto forte nei prossimi anni. Insomma, lei ci crede, se mi deve rispondere con un sì, con un no, ci crede che le nostre società occidentali possono consumare meno di quanto consumano oggi e magari continuare a migliorare la qualità della vita nei prossimi anni? Tutta la policy è in questa direzione e lo è certamente anche il nostro impegno, quindi ci credo per forza. Grazie, grazie Luigi Carbone. Arrivederci, grazie. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.